seggi qui, Crino, ecco di prece. Seco mi lascia, e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O te, resta, Igoro. Ai, ole lo so, o camare lascia, ore disci, che a chi perde un felice momento, non resta del piacere che i pentimenti. Sami dunque sardisca, e sino a quando saranno le mie sciagure, spettacolo e trionfo i miei nemici. Io, tua nemica, fammi più di giustizia, a tuo sollievo stendo la stessa mano da cui ti credi oppresso. Non mi lascia tener salda costanza, lascia sperar rigido stendo, eppur se non ricusi al tuo cuore il mio trono, il ciel ti chiama al qual sentier non ti fia grave o prince meco sede. Chi sarà mai, donde muoverò i primi assalti, parlar deve a quell'alto la lina o l'amante, la losina vuoi che ti attendo senza colpa dell'altro. Vorrei, Teuzzon, vorrei che intender tu potessi il linguaggio del cuore negli occhi miei. Oscura favellara, mira più attento di lumi il turbamento, e intenderai che d'amor vero è noto. Meglio ancor penso, ancora questo momento alla pietà si doni, fa tu la tua sentenza, o morte, o sole.